Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando realizzi un tuo desiderio è come se una parte di te fiorisse, come se finalmente potessi vedere con i tuoi occhi quello che avevi tenuto nascosto per un sacco di tempo. Sabato mi sono lanciato da 4000 metri e quello che dovevo vedere l'ho visto. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6000 metri. Ecco, in realtà sono 4000 i metri da cui ci si lancia col paracadute. Perlomeno nel mio caso è andata così. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. 800240024 per chiamare in diretta. 349-238-6666 per scrivere gli sms. È stato un weekend particolare il mio. Sapete, vabbè, per chi non lo sa al volo, io vendo tutto per realizzare una lista di desideri. Tra questi desideri ci sono, tra le altre cose, lanciarmi col paracadute. E per la prima volta da quando sono in onda ho fatto una delle cose che volevo realizzare. Mi sono lanciato con il paracadute. Sono qui, quindi tutto ha funzionato. Diciamo, la prima paura è se non si apre il paracadute. Credo che di fatto quella sia veramente una delle ipotesi per cui chiaramente il mio istruttore mi ha detto: guarda, hai corso più pericolo venire da Milano a Verona in macchina che non lanciarmi col paracadute. Questo è quello che si dice. Poi quando si è lì la situazione effettivamente è un po' diversa. C'è un video di quello che è accaduto, è sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Vendo Tutto. Oggi però è una puntata particolare, proprio perché avevamo in mente in realtà di andare avanti con la vendita degli oggetti. Poi ci siamo guardati un po' tutti in redazione e abbiamo detto: non possiamo non raccontare bene per filo e per segno com'è andata. Oggi non possiamo far altro che parlare di emozioni, di forti emozioni. 800240024 349-238-6666. Torniamo, facciamo un passo indietro e torniamo a venerdì, quando ci siamo lasciati a questo punto. Noi andiamo a quasi un minuto di caduta libera, poi apriamo il paracadute. Avremmo fatto quasi 3 chilometri di caduta libera e poi a questo punto si apre il nostro grande paracadute. Grande. E lì ci organizziamo grande per l'atterraggio. Ma quindi cosa ci mettiamo? 5-10 minuti, un'ora? 5-6 minuti siamo a terra. Lui era Alberto, che era il capo della scuola di paracadutismo dove mi sono lanciato sabato, che venerdì scorso in diretta mi ha raccontato quello che avremmo dovuto fare. Poi questa cosa me l'ha ripetuta sabato quando ci siamo incontrati. Quella di sabato per me è stata, so che si dice sempre così, però è stata probabilmente una delle emozioni più grandi che io abbia provato. Non mi è ancora mai nato un figlio, non mi ricordo quando sono nato, e quindi direi che cadere da 4000 metri è stata un'emozione fortissima. 800240024 349-238-6666. La più grande emozione che vi ricordiate della vostra vita. Fate così, vi fermate 5 secondi, se state guidando, se siete al supermercato no. Oh, magari però sì, qualcuno con l'auricolare. Se siete a casa, se state lavorando, vi fermate 5 secondi e ci pensate. Perché alla fine la cosa che mi è sembrata di capire è che di fatto le emozioni forti siano come una specie di bilancia che pesa quello che vale di più e quello che vale di meno. 800240024 per le vostre emozioni. 349-238-6666. Sul profilo Facebook già hanno scritto diverse persone. Mario dice: per fare una sorpresa alla mia ragazza prenoto un giro in elicottero sopra New York. Il problema è che soffro di vertigini e non salgo neanche sul brucomela delle giostre. È stata una vera prova d'amore. Sandro: la prima volta che mio padre mi ha portato allo stadio, l'emozione più grande della mia vita, con la lambretta di mio nonno, amichevole d'estate, SPAL Roma, primissimi anni 80. Paolo: l'emozione più grande, 21 giugno 1985, stadio Meazza, Bruce Springsteen. E poi ancora Pier dice: la mia prima volta al Mugello come pilota di moto, salivazione azzerata e urla dentro al casco a sentire la saponetta che tocca per terra. 800240024, ripeto, per le vostre grandi emozioni. 349-238-6666. Non deve per forza essere una roba carica di adrenalina, tipo appunto lanciarsi a fare il bungee jumping o il paracadute. Possono essere appunto cose che avete vissuto. Immagino che la nascita di un figlio sia una delle emozioni più forti, però immagino anche che sposarsi probabilmente è un'emozione, ma anche guardare un vulcano che erutta, se non è quello che blocca i cieli del mondo per 2 settimane, ma anche vedere l'aurora boreale. Insomma, la più grande emozione che avete provato e che vi ricordate in questo momento. 800240024 349-238-6666. Ora invece vi racconto esattamente com'è andata, perché è stata un'emozione veramente forte ed è andata esattamente così. Sabato mattina mi alzo e a Milano è una giornata così. Non piove, però è uggiosa, forse ha piovuto durante la notte. Allora vado sul mio sito del meteo preferito, controllo, su Verona è tutto a posto. Non dovrebbe piovere non prima delle 6-7 del pomeriggio. Mi metto in macchina, in un'oretta e 20, in un'oretta e mezza sono a Verona. L'aeroporto dove faccio il lancio è un po' fuori dalla città, è in campagna. Mi perdo perché il navigatore non è proprio precisissimo, o meglio, non è precisa la via dell'aeroporto. Passo di fianco all'Adige, faccio un paio di volte la stessa strada, poi finalmente paracadutismo a Verona. Ci siamo, arrivo, parcheggio, entro, conosco Alberto, che è l'istruttore che avete sentito prima e che venerdì mi ha raccontato cosa avrei dovuto fare, che è un signore minuto minuto con la faccia, una di quelle facce che ti fidi, insomma, con la faccia esperta. Conosco Anna, che è una persona che avevo sentito anche lei, fa parte della scuola, mi aveva raccontato che cosa fare, insomma, ci incontriamo, un po' di saluti, c'è un sacco di gente in giro perché c'è una gara di paracadutismo nel frattempo, quindi c'è gente che sale e scende in continuazione, avanti e indietro, paracaduti che vengono piegati, vengono aperti. E poi mi presentano Matteo, invece. Matteo è, oltre che un omonimo, è l'istruttore con cui mi lancerò io, in tandem, cioè sarà quello a cui sarò attaccato, quello che sarà legato dietro alla mia schiena. Matteo è un signore con la faccia simpatica anche lui, avrà sui 60 anni, tra l'altro questi paracadutisti tutti anziani, ma tutti tosti, insomma, Matteo c'ha la barba bianca, proprio ti ispira fiducia, è un po' un babbo Natale del paracadute. È di Varese, facciamo quattro chiacchiere, parliamo un po' di Milano, un po' del traffico, e poi prende me e gli altri due ragazzi che salteranno con me in tandem e ci spiega cosa fare. Non ci vuole tanto. Saliamo sull'aereo, quando siamo a 4000 metri, apriamo il portellone, mettiamo fuori i piedi, completamente fuori, a penzoloni, e facciamo un gesto molto semplice: avanti, indietro e giù. E sembra semplice, poi ci dice che quando saremo in volo lui aprirà le mani e le gambe per prendere l'assetto e poi noi faremo altrettanto. Scenderemo a 200-220 all'ora per un minuto e poi apriremo il paracadute e lì ce la godremo, guarderemo il panorama, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci guardiamo intorno, ci dicono ok, tutto a posto, aspettiamo mezz'oretta, viene il nostro turno. Sentiamo altri che vengono chiamati, numero 15, numero 16, numero 17, noi eravamo il 18. Ok, volo numero 18, tocca a noi. Io, i miei due compagni, quelli del tandem, gli operatori video, raggiungiamo l'aeroporto e arriva l'aereo. Saliamo sull'aereo, non so come si decide che io salto per primo. Non so chi lo che decide, però è così. Ok, io e l'altro Matteo saltiamo per primo, quindi salgono prima gli altri. È un buco, l'aereo è lungo e stretto e c'ha una turbina, un'elica turbina, una turbina elica. Insomma, chiudiamo il portellone e si parte. In un attimo l'aereo piglia molta quota perché è molto leggero. Ci mettiamo credo dai 12 ai 15 minuti, che effettivamente sembrano lunghissimi. E io sono misteriosamente tranquillo. Non so com'è, però mi sento sereno. Anche, appunto, il mio istruttore mi dice: ma ti vedo tranquillo, sì, guardiamo giù, si vede il lago di Garda, si vede l'Arena di Verona, guardiamo il panorama. E mi ripeto mentalmente le cose da fare, no? Avanti, dietro, giù. Quando prendiamo l'assetto, dopo 55 secondi lui apre il paracadute e fa tutto, e il resto viene da sé. Guardiamo l'altimetro, 3500, 4000 metri. Ok, ci siamo. Apre il portellone. Siamo a 4000 metri. Io metto giù le gambe, penso solo alle cose che devo fare. Ok? Avanti, dietro e giù. Ok, non credete quando vi dicono che a 200 all'ora sembra che l'aria ti sollevi, o meglio, credetegli, perché poi è così. Ma i primi 5-10 secondi non è così. I primi 5 o 10 secondi tu stai cadendo. Stai proprio cadendo. So che sembra una stupidata, ma tu stai cadendo nel vuoto. E quindi quella sensazione lì credo sia molto vicino all'idea del ok, è finita qua, sto cadendo. Poi invece prendi velocità e ti metti in assetto, e a quel punto sì, è un casino, non senti più niente, senti l'aria nelle orecchie, c'è l'operatore che ti guarda davanti, ti fa ciao, il tuo istruttore pure, tu urli come un pazzo. Nel video si vede io che praticamente non faccio altro che urlare e ridere e non si capisce come. E poi c'è un cenno, il cenno sono le due mani dell'istruttore davanti alla tua faccia per dirti che 55 secondi di caduta libera a 220 all'ora sono finiti e quindi si sta per aprire il paracadute. Quando arriva il cenno, lui mi fa le mani davanti, prende il gancio, sgancia e il paracadute si apre. E a questo punto sono 3 minuti di caduta, o meglio, di discesa col paracadute, ok? La terra si avvicina e a un certo punto la terra è vicinissima e io sono già atterrato. Lui mi dice quello che devo fare, tira sulle gambe, io tiro sulle gambe e siamo arrivati. Il problema è questo però, che dei 3 minuti di caduta o di discesa col paracadute io non mi ricordo niente, ma niente niente. Cioè mi ricordo che il paracadute si apre, che lui mi dice: Matteo, ci sei? Stai con me? Io gli dico di sì e poi mi ricordo solo che lui dice: alza le gambe, arriviamo. E non mi ricordo niente. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do it. Questo è David Bowie, questa invece è più grande, è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si vende, vendo tutto, anche se oggi non si vende niente, oggi si parla di emozioni, forse le emozioni più forti della vostra vita, nel mio caso probabilmente è stata così, un'emozione talmente forte che mi ha di fatto fatto svarionare, cioè ho perso, credo, consapevolezza in quei tre minuti di caduta con il paracadute. È da sabato che ci penso ovviamente a questa cosa, e ho pensato che a questo punto sarebbe stato il caso chiedere a qualcuno che ne sapeva, e quindi ho chiesto ad Alberto Pellai, che oltre a essere medico psicoterapeuta conduce con Nicoletta Carbone Questa casa non è l'albergo il sabato a mezzogiorno. Gli ho chiesto: ma esattamente secondo te, Alberto, cos'è successo? Pronto, Alberto? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno e grazie per essere qui innanzitutto a darmi sostegno. Ero molto interessato al tuo racconto, perché l'hai hai proprio descritto, ci hai portato dentro all'emozione. E non so esattamente dirti che cosa ti sia successo. Guarda, Alberto, io ti dico, quando sono arrivato a terra e sono arrivato a terra, ti ripeto, perché io mi ricordo benissimo di essere arrivato giusto con le gambe lunghe, ho capito che mi mancava un pezzo, no? Cioè ho detto, boh, io c'è una parte che non mi ricordo. E dopo un po' sono andato dal mio istruttore e ho detto: scusa un attimo, ma io per caso ho perso conoscenza? E lui mi ha detto sì. Però, ti ripeto, è una cosa strana, che non capisco se è una cosa puramente fisica, cioè afflusso del sangue, tu ne saprai dire di più, oppure, boh, è una roba che rimesta in qualche paura atavica e che sbotta in questo modo. Ma allora diciamo, potrebbe essere, io non sono un esperto neurofisiologo, da una parte potrebbe essere che vista l'altitudine a cui ti trovavi, visto l'esperienza anche molto forte che stavi vivendo, potrebbe proprio essere successo che tu hai perso i sensi. È possibile che ci sia stata una crisi vagale, è possibile che tu abbia avuto magari anche una sorta di spazio di pressione. Chi va in alta quota a volte proprio racconta anche fenomeni di questo tipo. E qua direi, questa è una spiegazione che lasciamo all'area della neurofisiologia e che ci interessa poco. L'altra parte potrebbe essere molto interessante, cioè tu racconti che sei entrato proprio, ti sei tuffato in un'emozione molto potente, molto intensa, e solitamente quello che cerca di fare la nostra mente quando ha esperienze emozionali così attivanti, così forti, è quello di starci dentro, ma a volte l'emozione prende il sopravvento, cioè è davvero troppo, per cui l'area della nostra intelligenza emotiva, quella cioè che sta dentro all'emozione, manda stimoli così intensi, così potenti alla nostra parte invece di pensiero più cognitiva, e il pensiero non riesce più a contenere l'emozione. A quel punto tu stacchi l'emozione dal pensiero, cioè, e quindi è una sorta di incoscienza cosciente, cioè una cosa per cui sei lì ma non sei lì. Bravo, tu ci sei ma non ci sei, potresti proprio chiamarlo un momento di dissociazione, per esempio, e proprio quando ne parlavamo insieme potrebbe essere, no, che uno è su un'automobile, entra dentro un suo ricordo molto molto potente e non si accorge più che dovrebbe uscire al casello che c'è da lì a 5 chilometri, quindi vuol dire che ha fatto un'esperienza che mentre il tuo corpo, i tuoi occhi, i tuoi sensi ti fanno stare sulla strada in modo competente, la tua mente ti sta portando altrove. Alberto, guarda, direi che sono felice della tua spiegazione, credo che sia una roba più o meno a metà strada tra l'una e l'altra cosa che ci siamo detti, un po' fisica e un po' che è stata veramente una cosa molto forte. Alberto, ti ringrazio molto e ci sentiamo sabato a mezzogiorno. Allora. Saluti. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao, grazie. 800 24 00 24, intanto mi scrivono: la prima volta che ho suonato come DJ davanti a 1500 persone, l'emozione più grande della mia vita. Ciao DJ Graham. Ciao, sono Marco, mi sto preparando per una spedizione in Nepal, ti portiamo noi su Rosa, così realizzi anche il secondo sogno. Guarda, vediamo Marco, perché se poi anche su Rosa c'è lo svarione siamo da capo. Però le emozioni più grandi, 800 24 00 24, non parliamo più delle mie, parliamo di quelle di Andrea da Como. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Andrea, buongiorno. mi piace la tua trasmissione. Bene, mi fa piacere, a me piace il tuo tono pacato invece. Dunque, a parte i figli che non valgono. No, vabbè, due. Valgono però. No, valgono, ma non ne va bene, sennò i figli, eccetera, va bene, ok, d'accordo. Qualche anno fa andavo diverse volte in Sud America per lavoro, mm-hmm. e faccio il lavoro di tellaico, molta meno fama, devo dire. E cioè, andavo, scusi, sei psicoterapeuta? Sono psicologo, okay. Sì, andavo giù insieme all'università. E vabbè, mi raggiunge quella che è attualmente mia moglie, con un amico pescatore ecuadoregno, perché mm-hmm. viene Ecuador. Andiamo a pescare un po' di tonni. Vabbè, andiamo, erano circa le 5 del pomeriggio, la fa buio presto. Mm. Vabbè, a parte all'andata, questo qua dice: ma si sono rotte le lenze, io gli faccio: per che cosa? Gli fa: nada, tiburone, cioè Pasquali. Vabbè, idea, sì, di questo. Sì. A un certo punto siamo senza punti di riferimento, in una zona dove passano le balene. Noi non lo sapevamo assolutamente, lui fa, ci dice: silenzio, e c'era una luce spettrale, perché a Pacifico alle 6:30, mm-hmm. 7 di sera, un silenzio rotto soltanto dalle onde, e a un certo punto, a non più di 2 metri di distanza, una cosa bruna che la schiena della balena che ci passa accanto. Quanto era grande più o meno? Sarà stata un... per me è enorme, però 5-6 metri. Senti, con ma... la coda finale, però in questo silenzio, senza, in questo nulla dell'oceano. Uh-huh. Senti, Andrea, ma scusami, ma è vero quello che dicono, che quando vedi una balena hai proprio la sensazione che non sia un pesce, ma che sia un animale? Assolutamente, guarda, io ho visto, abbiamo visto passare, tra l'altro io un po' con la coda dell'occhio, ma sentire il rumore era come vederla nella sua pienezza, comunque. Andrea, no? Senti, ti ringrazio molto, facciamo un sacco di telefonate in attesa, e quindi io purtroppo, come al solito, ho poco tempo. L'ultima cosa, visto che sei psicologo, è possibile la storia della dissociazione, che io abbia staccato la testa? Assolutamente sì, assolutamente. Ok, va bene, grazie mille, buona giornata. Ciao Andrea, ciao. Andiamo a Genova da Riccardo, pronto? Eccomi, pronto. Eccoti qua, ciao Riccardo. Buongiorno. Qual è stata l'emozione più grande? Ciao Emilio. L'emozione è stata, era l'85, la prima onda che ho preso a Biarritz, era un'onda di 4 metri circa, a corpo libero, quindi senza tavoletta, senza, quindi né in piedi né sostenuto una tavoletta. Ok, sei un surfista quindi, Riccardo. Lo sono stato, adesso sono una tag e non posso più fare certe cose. Riccardo, grazie mille, buona giornata. Grazie, complimenti per la trasmissione. Ciao, anche tu. Ciao, grazie anche a te. Pronto Gabriele da Bergamo, pronto? Pronto, ciao. Ciao, come va? Bene. Dimmi al volo qual è stata l'emozione più grande. Durante un'immersione in Sudan, a un certo punto uno inizia a suonare, a fare rumore, ci giriamo tutti e a non più di 3 metri da noi un intero branco di squali martello. Wow. Saranno stati almeno una trentina. E cos'è accaduto? Tutti immobili, fissi a osservare questo animale meraviglioso. Quanto sono grandi gli squali martello? Quelli che in branco sono 2 o 3 metri al massimo. Ah, ok, va bene. Gabriele, ti ringrazio. Devo dire, ti sei emozionato molto quando è successo, però adesso sei serenissimo, mi pare. Ciao, grazie. Ciao. L'ultima telefonata, Daniele da Milano. Ne vedo solo una. Daniele, pronto? Pronto. Ciao, ciao. Mi puoi dire cosa mi è successo? Perché leggo che sei un istruttore di paracadutismo. Sì. Allora, lo cerco di essere il più veloce possibile. Bravo. La scarica di adrenalina che poi è passata nel momento dell'apertura, sì, e le rotazioni della velatura che trasportano sangue dalla testa ai piedi, che hanno fatto mancare di colpo un attimo di presenza. Ok, ma quindi scusami, la domanda che mi pongo e che ti pongo è: sono svenuto, sì o no? Quasi. Ok, Vincenzo, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. L'ultimo messaggio, cioè ce ne sono diversi, ma quello che mi ha colpito di più è questo: sono dislessico, l'emozione più grande della mia vita è stata abbracciare mio padre dopo la frase del professore: per delega del magnifico rettore ti proclamo laureato in fisica. Daniele Zanoni da Reggio Emilia, grazie Daniele, grazie anche a Laura, Tiziano, Alessandro e Pietro Lacorte. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e che mi hanno fatto sentire meno scemo di quanto mi fossi sentito sabato. Per vedere il video del mio lancio col paracadute andate sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani si continua come al solito, si continua a vendere e vendo un cesto per la biancheria. Voi invece godetevi le emozioni e non solo quelle forti, che per quanto leggere sono sempre emozioni. Love, love, love.